È solo sostanzialmente per ringraziarvi e anche un po' per condividere la gioia per questa cosa. Abbiamo fatto in 3 giorni in cui abbiamo avuto almeno un paio di migliaia di persone che hanno sostenuto l'immaginario di classe operaia. Ecco, sostanzialmente non si tratta di sostenere non è uno dei tanti festival, questa è una cosa diversa. Non ci sono gli sponsor dietro, lo dico continuamente, no? Siamo partiti con crowdfunding. Un'idea nata 2 anni fa quando sono stato invitato a Bristol. E adesso ho proprio evidenti le differenze, non sono solo sceniche. A Bristol era, diciamo, un festival che cercava di adeguarsi all'ideale dei festival letterari mainstream, quindi eravamo in una venue particolarmente patinata e diciamo. Le forme erano quelle dei festival ordinari e i contenuti, si cercava di dare un impulso alla letteratura working class lavorando solo sui contenuti. Ecco, una delle cose che noi abbiamo un po' capito nel corso degli anni, anche lavorando con la collana working class, è che non possiamo dare contenuti a una forma che continua a essere quella. A tratti molto logora, diciamo, della cultura mainstream di classe media. È una questione che abbiamo visto anche prima quando Portelli parlava del romanzo. Il romanzo nasce come forma in cui l'immaginario borghese si alimenta nel Seicento, con Defoe, con tutto l'armamentario, voglio dire, del narrativo di una classe sociale che si fa colpi di individualismo, si fa strada anche nel campo delle belle lettere, e non basta tenere la forma e parlare di operai. Ecco, bisogna lavorare anche sulle forme. Abbiamo visto il romanzo di Pontius alla linea esemplare, perché fai conto alla forma lunga del romanzo borghese, però cerca di lavorare all'interno con quei 15 secondi rubati a ogni ora di produzione in catena, in cui lui scriveva un verso all'ora, ecco, sabotando in qualche maniera, riappropriandosi del tempo morto del lavoro col tempo vivo dell'immaginario operaio, della scrittura. E quindi veramente non ho altro da dirvi. Adesso facciamo una cosa un po' particolare, tanti interventi un po' più brevi. E poi dopo mi sembrava doveroso che il momento clou torni agli operai, perché senza di loro non avremmo fatto niente di tutto questo. E quindi la parola torna agli operai, perché questo penso sia un po' il messaggio importante di questo festival. Non possono più essere, in questo senso, è finito. A tutti quelli che ci dicono siete novecenteschi, siete vecchi, direi la cosa meno novecentesca che stiamo facendo è quella di pensare che siano gli intellettuali a parlare a nome dei lavoratori, delle lavoratrici. Ecco, la differenza è proprio questa, che oggi per tante ragioni i lavoratori sono in grado di parlare, di raccontarsi da soli e anzi alimentano col loro protagonismo, hanno alimentato per 20 mesi una lotta che è diventata esemplare, anzi che ha riattivato tutta una serie di lotte che esistevano anche sul territorio, per lo più sul territorio fiorentino, ma che se forse hanno ritrovato una convergenza, è stato grazie agli operai di GKN, perché nella lotta si risolvono le divisioni, no? Quando la lotta giace e poi le divisioni emergono. Ecco, loro hanno saputo far convergenza fra le lotte, e noi abbiamo provato oggi, in questi giorni, a fare convergenza culturale fra la lotta e l'immaginario simbolico, intellettuale, narrativo, letterario, tutto quel che volete. Quindi niente, io passo la parola adesso a Alessandro Portelli per un. Ma io pensavo prima, fatemelo guadagnare però, no? Io pensavo prima di ascoltare gli altri e poi. Allora, semplicemente 3 cose che mi sono venute in mente. La prima, quelli che fanno come me il lavoro di storia orale e cose di questo genere, si sono sempre vantati che noi diamo voce a chi non ha voce. Beh, è esattamente il contrario. se gli operai, gli afroamericani, i migranti, i braccianti, le donne non ci avessero voce, io non sarei in grado di scrivere una riga, cioè loro hanno dato voce a me. E peraltro ma nel senso molto ben preciso, che io da piccolo, a parte c'è un famoso saggio di una grande teorica della letteratura, Gayatri Spivak, intitolato «Possono parlare i subalterni?», e che è ironico. E io, la mia risposta è «Ma io l'ho sentito pure cantare!» No? E, ecco, e, diciamo, io da piccolo io volevo fare lo scrittore. Poi mi accorsi di due cose. Non ero in grado di inventarmi le storie, e tutti i personaggi avrebbero parlato come me. Qual è stata la soluzione? Andare a farmi raccontare le storie degli operai dell'acciaieria di Terni, dei minatori del Kentucky, dei partigiani di Roma, che ognuno parla a modo suo, ognuno parla diversamente, ognuno la storia, e poi il lavoro che ho fatto io è sempre quello semplicemente di metterle insieme, il montaggio. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. La seconda cosa che mi è venuta in mente è Frederick Douglass. Frederick Douglass, schiavo, nasce schiavo, ruba letteralmente la scrittura. Nel senso che lui racconta proprio questa cosa meravigliosa, che lui lavorava in cantiere, e allora in cantiere lavorava, il suo padrone lo affittava a pagamento ai proprietari del cantiere, e nel cantiere c'erano le scritte babordo, tribordo, no? Per cui lui si impara qual è la B e qual è la T. E allora che faceva? Nelle strade di Baltimore fermava i ragazzini e diceva: tu sai scrivere? E quelli dicevano: beh, sì, certo, ti sfido, perché io so fare anche io so scrivere, io so fare la B, e tu che sai fare? E quello gli faceva una F, e lui aveva imparato la F. Quindi ha letteralmente rubato la scrittura. E poi quando lui scrive questo grande classico della letteratura americana, che è Narrative of Frederick Douglass, Narrative of an American Slave, il sottotitolo è Scritta da me stesso. Questo perché, e questo vale anche un po' per la letteratura migrante in Italia, all'inizio è sempre Sala Metnani con Mario Fortunato, cioè c'è sempre il giornalista che raccoglie la storia del migrante che non sarebbe capace di farla da sé. Ecco, quando Frederick Douglass e altri come lui affermano written by himself, scritto, vuol dire non abbiamo più bisogno di altri che ci raccontino la storia. Poi la terza e ultima cosa che mi viene in mente, non mi viene in mente per nessuna specifica ragione, ma ho molto pensato a Tilly Olsen. Tilly Olsen, beh, io la ricordo personalmente perché quando la andai a trovare a San Francisco uscì fuori che io non avevo mai comprato armi al mio bambino. Lei prese il mio bambino per mano, lo portò in un supermercato e gli comprò una pistola. Tilly Olsen è una delle figure cruciali della cosiddetta letteratura proletaria americana degli anni 30. Ma non ha mai pubblicato niente fino agli anni 60, perché non aveva il tempo. Per cui il suo primo libro, tradotto fra l'altro in Italia quasi immediatamente da Sara Poli, è un libro intitolato in Italia Fammi un indovinello, il cui primo racconto è Sto qui a stirare. E il tema è quello del tempo della donna proletaria che deve trovare il tempo per scrivere. Fra l'altro non era del tutto proletaria, ma Harriet Beecher Stowe, l'autrice della capanna dello zio Tom, racconta sempre che lei ha scritto quel romanzo con un bambino in un braccio, seduto su una gamba, un altro su un'altra, nel mezzo delle faccende di casa. Tilly Olsen rivendica il tempo che è sottratto alle persone che lavorano, compreso appunto il lavoro delle donne che lavorano in casa. Tilly Olsen ha fatto l'operaia, eccetera. E tant'è vero che lei, il suo grande romanzo, Io Nondio, degli anni 30, non riesce a finirlo e uscirà solo negli anni 60, incompiuto, perché lei non ha avuto il tempo di finirlo. Non ha avuto il tempo perché doveva lavorare E anche non ha avuto il tempo, anche perché doveva militare, perché Tilly Olsen è stata una delle protagoniste del grande sciopero insurrezionale di San Francisco, perché nessuno ce lo racconta, ma gli operai americani hanno fatto 2 o 3 insurrezioni del 1936. Ecco, mi sono venute in mente queste 3 cose. Chi è che dà voce a chi? Rubare la scrittura e rubare il tempo. Queste sono le cose che rendono possibile una letteratura della gente che lavora. Sì, io nel piccolo giro volevo dire che siccome tanti partono da lì, io porto qui una generazione, spesso sono le altre classi che fanno l'albero genealogico per la dinastia e non lo facciamo mai noi, e noi lo dovremmo fare per imparare a costruire da dove veniamo di famiglie. I miei genitori sono stati operai tessili, la mia mamma è la vestaglia blu del libro, portiamo dietro tutte queste storie, anche tante delle storie dei morti sul lavoro. Pietro Mirabelli, che era un minatore che ha costruito tutte le strade veloci dell'Appennino e anche oltre, perché lui è morto in Svizzera come minatore, trasfertista, calabrese, figlio d'arte, come si definiva lui, diceva che doveva raccontare quella storia perché non era la sua storia, ma era la storia di chi faceva e fa la vita che faceva lui. Ecco, io vorrei che in questi giorni non si facesse, come spesso succede in altri festival, turismo culturale, ma che queste storie le si riportassero negli uffici, nelle piazze, nei posti di lavoro, per riprendersi un po' le parole e il racconto, ricordandosi anche che raccontare non è semplice e che fare rete ci può aiutare anche a proteggersi. Voglio raccontare di un laboratorio e di un'esperienza fatta proprio in questi giorni, perché qua c'è stato lo spazio prole. Io sono una invece sproletaria, non ho figli, e insieme ad altre compagne c'è stato un surplus di energia, perché queste compagne militanti, madri, lavoratrici, si sono spese per accudire i figli di altri in questo laboratorio e sono venute fuori delle cose stupende dai bambini, che sarebbe bello riraccontare anche qua. Ma in un immaginario di una storia, che lì parlavamo di questo veligibile, della lotta, di cambiare questi mondi e l'immaginario, abbiamo chiesto ai bambini cosa fosse il baratto, e un bambino si è alzato e ha detto: uno scambio gentile. Ecco, ha riassunto in poche parole come possiamo ribaltare un sistema che c'è e che con le parole dei più piccoli lo possiamo vedere realizzato. E dopo il mio laboratorio ho visto una cosa fantastica, delle bimbe che qua a giro uscivano una cornice, riprendendo anche le domande che hanno fatto il collettivo di Fabri, tu come stai, e facendo finta di essere delle giornaliste, rifare le domande a chi passava per qua, quindi chiedendo quanto guadagni, ma come lo guadagni, sei contenta al lavoro e tu come stai. Ed era bellissimo, perché nell'ultimo romanzo che ho scritto, Se tornano le rane, parla proprio di bambine che vanno all'outlet a fare delle interviste sul mondo del lavoro, e sono quelle che vanno a scovare altre storie ancora, e qua l'ho visto realizzarsi. Ecco, a volte gli immaginari possono essere lanciati e poi c'è qualcuno che li prende e li riporta. Niente, volevo dire questo, e in più sull'editoria e sul fare rete, perché magari questo è un piccolo seme col festival, con l'incontro di più voci, da più posti di lavoro, ma occorre classe lavoratrice in tutti i campi, per riprenderci proprio quegli aspetti legati a chi poi decide, no? Qui abbiamo fatto una rete attraverso una casa editrice, attraverso l'Arce e i Circoli, attraverso una comunanza di intenti. E spesso raccontare significa anche rompere alcuni scami in vari punti, in vari aspetti. Mi ricordo che all'inizio, quando avevo esordito, si era creato con un gruppo di scrittori in causa, un blog, parlava proprio dei contratti editoriali, delle difficoltà in casa editrice, del fatto di essere lavoratori della scrittura e di quello che potevamo incontrare. Ecco, non è che siamo stati accolti molto, molto bene o che abbiamo trovato una rete come è stata fatta oggi. Quindi diamoci da fare in ogni aspetto, perché ancora c'è tanto da immaginare, tanto da lottare, anche tanto da scrivere e da raccontare di questi giorni, perché noi siamo un po' in bomba rispetto alla fatica di essere, come diceva anche stamani Portelli, no? Nel nostro mestiere, ma anche militanti, ma anche quelli che hanno cercato di sostenere in questi mesi di lotta anche il collettivo attraverso vari interventi. Ecco, non smettiamo da domani e cerchiamo di darci da fare tutti per tutte le protezioni di cui abbiamo bisogno. Grazie. Grazie Simona, e do la parola a Valerio Monteventi, che un altro dei nostri autori della collana Working Class, tra l'altro del primo libro Ruggine Meccanica e Libertà, è stato il primo libro che è uscito della collana nel 2018. Beh, io vorrei iniziare con una storia di un po' di anni fa. Il 9 ottobre del 1979 la Fiat decide di licenziare 61 operai Avanguardie di fabbrica e li accusa nelle lettere di licenziamento di varie attività svolte durante le lotte in fabbrica da queste avanguardie operaie. Li accusa di autolimitazione del rendimento, li accusa per i cortei interni, li accusa di insubordinazione nei confronti dei capi. Li accusa anche di una cosa particolare. Vi leggo una di queste accuse che veniva fatta a un lavoratore. Nel mese di giugno del 1979, attraverso scritti diffusi all'interno dello stabilimento, ebbe a diffamare i rappresentanti della direzione aziendale, compilando un giornale interno, la Fiat Rivalta Press, intitolato Le avventure di Super Manichetto. Inoltre ritardava abitualmente la prestazione lavorativa per affiggere ad una bacheca appositamente da lui insieme ad altri approntata giornali, volantini, manifesti vari che successivamente leggeva e commentava ad alta voce. Questo licenziamento dimostra che negli anni del lungo autunno caldo italiano la scrittura fu un arnese di lavoro importante per i comitati di fabbrica, nelle scuole, nelle università. Attraverso la scrittura si comunicava in un momento in cui la lotta operaia aveva bisogno di articolazione, quando si doveva fermare un reparto, quando occorreva saltare una scocca, quando la catena di montaggio doveva essere rallentata. Si scriveva dentro i reparti, si scriveva in mensa, si utilizzava la mensa, la pausa della mensa per raccontare quello che era avvenuto nei reparti nelle ore precedenti o quello che sarebbe stato necessario fare durante l'arco della giornata di sciopero. Si scriveva anche con un'altra modalità, era quella dei giornali di fabbrica. Proprio in quegli anni l'offset, che sostituì la stampa tipografica, permise a realizzare molto facilmente strutture molto agili di comunicazione e nacquero dappertutto giornali di fabbrica che venivano fatti direttamente dai comitati di fabbrica, e in quei giornali si parlava degli obiettivi operai, si parlava della necessità di lottare con certe modalità, ma si parlava anche della condizione operaia direttamente. Questo ha permesso sicuramente di fare un salto di qualità e di utilizzare la scrittura come elemento di coinvolgimento dei compagni di lavoro e di tutte le persone comunque che venivano coinvolgiate in questi momenti di lotta. Questo tipo di attività, questo tipo di comportamenti non piaceva alla nomenclatura della, della classe dirigente dei vecchi partiti legati alla tradizione storica del movimento operaio. Dopo i licenziamenti dei 61 operai Fiat, il segretario del Partito Comunista di Torino, Adalberto Minucci, disse che la Fiat ormai era diventato un luogo dove non era chiaro quale fosse la composizione. Questi giovinastri che riempivano i reparti non avevano le caratteristiche della vecchia tradizione seria e ordinata degli operai di un tempo. Disse: abbiamo raschiato il fondo del barile. Ecco, il fondo del barile divenne un giornale di fabbrica a Bologna che rappresentò, diciamo così, le istanze dei giovani operai della città emiliana. Un giorno la redazione del Fondo del Barile decise di distribuire un volantino davanti alle fabbriche, un po' diverso da quelli che si distribuivano solitamente. Io voglio concludere il mio intervento leggendo questo volantino, perché secondo me è un'espressione di scrittura operaia che rappresenta in qualche modo tutti i ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni, ed è una forma di scrittura collettiva che scioglie anche un po' i nodi che venivano posti quando si diceva lo scrittore che scrive da solo, però scrive per soggetti che si rappresentano come classe. Questo volantino aveva un soprattitolo, non un sottotitolo, un soprattitolo, ed era una citazione di Karl Marx che diceva: eccessa il tempo in cui le macchine fanno fare all'uomo ciò che esse possono fare invece sua. E subito sotto il titolo era: i turisti a fare gli operai a fare i turisti. E il testo, molto breve, diceva: fuori ci divide la nebbia, il tempo che vogliamo deve andare meno in fretta, che non sia subito mattina, per incontrarci all'entrata del paradiso del padrone. Sono stanco di sentire il tuo alito di caffè alle 7:30 che si perde nella nostra rabbia disorganizzata o delegata. Però ci incontreremo oltre i cancelli, dentro i reparti, nei cessi, per parlare di tutto ciò che vogliamo. E io ti dico che non è importante dire delle cose, ma conservarci lo spazio per dirle è lo strumento che ci fa incontrare. Domani nei gabinetti dei reparti, dopo il panino e dopo aver letto il giornale, parleremo dei nostri spazi liberati dal lavoro. Dimostreremo la nostra autodeterminazione e la nostra energia agli uomini della cravatta. Non è ancora ora di andare in paradiso, cara classe operaia. Gli uomini del presidente ci stanno misurando, confondendo le nostre conquiste. Guardiamo in faccia la paura, ci potrebbe incatenare alle macchine. Quando la musica finisce, la rabbia comincia a pulsare e la liberazione ti insegna a divenire un compagno. Lo spettacolo del potere non ci deve trovare comparse. E Salvatore Cannavò. Giornalista del Fatto Quotidiano e direttore editoriale di Edizioni Allegre. Allora, buonasera. Allora, io sono due giorni da ieri che faccio domande qua ogni tanto in giro, chiedendo: ma che sta succedendo? Cosa è successo in questi tre giorni qui? Perché veramente vorrei capire cosa è successo in questo evento che, ovviamente, per molti, cioè, è dovuto in gran parte alla forza di questa lotta operaia, e poi ci tornerò ovviamente, però è evidentemente che è qualcosa di inatteso, qualcosa che ha stupito tutti noi, spero tutti, anche tutti noi, tutti quelli che siamo qui, che partecipiamo, che parliamo oppure ascoltiamo, eccetera. Allora mi sono andato a recuperare un bellissimo libro che non è tradotto in italiano ancora, dico ancora perché magari poi come Allegri forse riusciamo a farlo, ma vedremo, non prendiamo impegni. È il libro di un filosofo francese, Jacques Rancière, uno bravo, diciamo, e si intitola La nuit des prolétaires, la notte dei proletari. Allora, lui cosa ha fatto con questo libro? Ha raccolto gli scritti di un manipolo di ventenni che tra il 1830 e il 1848, la Seconda Repubblica, si erano decisi a sfidare l'insopportabile, ma non la fatica del lavoro o la miseria, no, il tempo rubato dal lavoro. E questi operai si ritrovavano nell'ora, la notte, in cui dovrebbero gustare il sapore di un sonno tranquillo, per scrivere, magari fondare un giornale. Notti rubate al riposo per imparare, discutere e scrivere. Il libro infatti colleziona alcune decine di questi scritti, tutti quanti tra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, in cui un pugno di individui svolgono un'attività culturale di notte, perché di giorno lavorano, e lo fanno intensamente per sottrarre la notte, leggo ancora Rancière, alle costrizioni dell'esistenza proletaria, e così questi individui forgiano l'immaginario dell'identità proletaria. Il sottotitolo del libro è, di una poesia estrema, Archivio del sogno operaio. Ecco, io penso che queste parole scritte da un filosofo contemporaneo, ma riferite a una pratica operaia di 150 e più anni fa, 170, vabbè, insomma, fatevi i conti, della metà del secolo Ottocento, ci dicono che probabilmente noi in questi giorni, unendo una lotta operaia grandiosa come quella della GKN, però a questo bisogno di cultura, di libri, di narrazione e anche di gioia, in realtà ci siamo messi un po' alla ricerca e forse anche cercando di individuare i contorni di un nuovo immaginario, perché noi di questo abbiamo bisogno per uscire dalla disfatta in cui complessivamente stiamo, no? Abbiamo bisogno di resistere, abbiamo bisogno di batterci, però abbiamo bisogno di farlo con avendo chiaro in testa un nuovo immaginario verso il quale noi vogliamo andare. E quello che è avvenuto qui in questi giorni a me dice che è questo, e tra l'altro me lo dice anche il termine che abbiamo scelto, questo working class. Io penso che il termine inglese ci permette di uscire dalla traduzione letteraria stretta, che dovrebbe essere classe operaia, classe lavoratrice, classe che lavora, e invece ci permette di avere una bella definizione polisoggettiva, cioè un bel singolare plurale. Un working class è lavoro, è lotta contro il capitale, è transfemminismo, è ecologia, è antirazzismo, è tante cose, tutte espressioni che si condensano in un'appartenenza che sentiamo intuitiva. È come se potessimo forgiare finalmente un'identità collettiva finalmente estesa, capace di tenere insieme molte identità e che trova in un grido di battaglia il mezzo per esprimersi. Insorgiamo. Insorgiamo è l'espressione che dà forza a questa identità estesa, come la definisco, polisoggettiva, plurale, che in qualche modo noi abbiamo, se guardate il programma del festival, è tutta rassunta dentro il programma del festival, e tutte le parti di questo festival sono state belle, ci sono piaciute tutte, perché tutte quante rimandavano non a un qualcosa di centrale che sovraordinava le altre, ma a qualcosa che stava insieme agli altri e alle altre. E credo che questo sia l'immaginario che in qualche modo viene fuori da questa, da questo nostro lavoro. Poi vengono fuori tante altre cose, il lavoro collettivo, Alberto ci ha insistito molto su questo, io sono d'accordo, il lavoro culturale in Italia risente ancora a sinistra, risente di quella idea, diciamo, degli anni 50, anni 60, no? Nata poi soprattutto, diciamo, nel movimento comunista, il lavoro culturale è appannaggio di alcuni intellettuali che spiegano agli operai come si deve leggere, come si deve vivere, come si deve pensare, eccetera, una cosa quasi come la vecchia coscienza importata dall'esterno sulla condizione. Ora, non è evidente, come diceva Sandro stamattina, che siamo tutti dentro questa classe estesa, questa identità estesa, questa working class, ci sono gli individui e c'è il valore dell'individualità. Però è chiaro che all'interno di un lavoro collettivo in cui in qualche modo si tende a separare, a superare la separazione tra lavoro intellettuale e lavoro pratico, lavoro concreto, c'è una potenzialità in più, c'è una possibilità in più. E io penso che noi l'abbiamo visto in questa pratica, in questa modalità che abbiamo scelto. Ma finisco sull'ultimo punto che mi sembra ancora più interessante. Io da un po' di tempo studio il mutualismo, studio il movimento operaio dell'Ottocento, e mi sembra che tra la working class, la letteratura working class e una cosa come la società di mutuo soccorso Insorgiamo, ci sia un'altra pratica, un altro elemento molto comune, il fare da sé. Il fare da sé è l'elemento centrale che spiega le origini del movimento operaio. Con il fare da sé si è fondato il mutualismo, il mutuo soccorso, il mutuo aiuto, la relazione intersoggettiva, la cooperazione solidale. Diceva Alberto, i lavoratori possono parlare, e i lavoratori della letteratura working class finalmente possono parlare e scrivere da sé. E gli operai possono decidere da sé di far ripartire una fabbrica, perché se non lo fanno loro, a quanto pare non la fa ripartire nessun altro. Il fare da sé è centrale. È quel fare da sé E quel fare da sé di cui parlava, se volete, anche Pasolini, citato ieri sera in Tommaso Blu, evitare che la nostra storia la scrivano i borghesi. Ecco, fare da sé rimanda alla nascita del movimento operaio, che si è espresso senza mediazioni, prendendo direttamente parola e parlando in prima persona. E finisco citandovi un brevissimo brano ancora di La Nuit des Prolétaires, La Notte dei Proletari. La notte dei proletari è la notte in cui si prepara, si sogna e si vive l'impossibile, la sospensione dell'ancestrale gerarchia che subordina coloro che sono condannati a lavorare a coloro che hanno avuto il privilegio di pensare. Fare letteratura working class significare proprio ribaltare questa ancestrale gerarchia. E Francesca Coin, sociologa del lavoro, già intervenuta ieri nel dibattito con Di Hunter. Grazie Giulio. Io ho solo tre cose telegrafiche da dire, due delle quali sono dei grazie. Allora, grazie intanto a tutti voi, tutti voi che siete qui. Il primo grazie però va anche a Alberto Prunetti e alla casa editrice Allegre. E volevo fare un grazie alla casa editrice Allegre, perché a me sembra che questi tre giorni, che sono stati dei giorni magnifici, ma ci hanno anche consentito di ritrovarci come persone, come soggetti, insieme, derivino anche, nascano anche da un lavoro fatto da anni, come le formiche, poco a poco, passo a passo, situati sempre politicamente in un paese in cui l'informazione e la stampa ormai fa solo gli interessi degli stakeholders, per cui è difficile essere indipendenti. Oggi è difficile parlare di working class, è stato difficile farlo, penso, per tutti questi anni, e io sono felicissima di questo grande successo. Volevo ringraziare tutti e tutte nella casa editrice e i volontari anche che hanno reso possibile questo evento. Il secondo grazie inevitabilmente è al collettivo di fabbrica GKN, e voglio dire una serie di perché, e li dico da esterna, da persona che penso come tanti di noi si è sentita ispirata in questi mesi e ha pensato tante volte grazie per quella caparbietà incredibile che hanno dimostrato per mesi e mesi in una lotta difficilissima. Ed è proprio la difficoltà di questa violenza psicologica di cui ci hanno parlato tante volte, di un'avvertenza complicata, ma questa caparbietà di dire questa volta però noi non molliamo, questa volta mollate voi per una volta, perché non c'è scritto da nessuna parte che dobbiate vincere sempre, anche se avete provato a vincere per 40 anni, adesso quel tempo è finito. E io per questa caparbietà li volevo veramente ringraziare. Però questa è la prima di quattro ragioni, ne ho altre tre per cui ringraziare il collettivo di fabbrica. La seconda ragione è perché comunque, crescendo anche negli anni scorsi, ogni tanto mi è parso che scivolavamo spesso su un'estetica del conflitto, un'idea, domani facciamo la rivoluzione, intanto eravamo sempre più oppressi, eravamo sempre più sospesi in un eterno presente neoliberale che non si capisce bene dove ci voleva portare. E a me colpivano molto spesso i discorsi di GKN, perché dicevano: invertiamo un po' alla volta il rapporto di forze, poniamoci degli obiettivi che sono fattibili, siamo onesti sulle difficoltà, e questo essere onesti sulle difficoltà è anche un modo di cominciare a dire delle parole oneste su dove siamo, in che situazione siamo, come facciamo ad aiutarci. Questa è la seconda ragione. La terza ragione è perché questa è una lotta, ma è stata una lotta fatta con amore dall'inizio alla fine. Alla fine si parla spesso di lotte operaie, però quando Dario dice che questa è una grande storia d'amore col movimento ambientalista, col movimento LGBTQ, con tante e tanti di noi che singolarmente si sono sentite e sentiti coinvolti, questa storia d'amore si è sentita sempre in ogni parola, in tutta la poesia di questa lotta, e secondo me anche di questo dobbiamo ringraziare. Però c'è un'ultima ragione che secondo me è forse anche la più importante, ed è che in questo periodo io mi stavo chiedendo come facciamo, perché In passato a me veniva spesso in mente ultimamente il testo che Keynes ha scritto nel 1930, Prospettive economiche per i nostri nipoti, in cui diceva in buona sostanza tra 100 anni lavoreremo meno perché l'automazione e tutto il resto ci renderanno possibile lavorare di meno. Arriviamo 100 anni dopo e spiace dirlo, ma non è vero, non è possibile, ma le potenzialità di tutto il lavoro che abbiamo fatto non le abbiamo godute perché siamo in un mondo totalmente diseguale e ci hanno creato un sacco di problemi, abbiamo un sacco di problemi in più perché c'è una crisi bancaria, c'è un collasso climatico, c'è una scarsità di risorse, c'è, ci sono tutta una serie di problematiche che fanno sì che non c'è più una risposta sola. Abbiamo bisogno di tutta la cassetta degli attrezzi, di una cassetta degli attrezzi enorme. E a me è parso in questi mesi che l'unico discorso lucido sul futuro venisse proprio da qui, perché metteva insieme ambientalismo, l'idea della fabbrica socialmente integrata, restituire i territori, chiedere come stai, provare a farlo insieme. Io non l'ho letto da nessuna parte, non ho trovato da nessuna parte un ragionamento che metta insieme il ripensamento della struttura produttiva, dare al territorio e essere sensibili al cambio climatico. E secondo me questo ci dice due cose. La prima cosa che ci dice è che se anche parlano sempre di merito, l'intelligenza vera sta qui e non sta al governo, dove parlano di merito ma non meritano proprio niente. E l'ultima parola è per dire che io spero che questo è l'ultimo giorno del festival, ma io spero sia un grande inizio. Chiamo già Dario del collettivo di Fabbrica a salire, ma intanto approfitto anch'io di questo spazio per fare alcuni ringraziamenti. E intanto grazie a Francesca per aver per le parole di elogio verso di noi. Ma insomma, questi giorni sono stati incredibili per partecipazione, per coinvolgimento, per clima che c'è stato, per il numero di libri venduti. Cioè, avete visto scendere quel banchetto in modo incredibile, siamo rimasti diciamo a bocca aperta. Molti ci hanno chiesto, vabbè, allora sarà la prima edizione del Festival di Letteratura Portinca, o lo faremo itinerante? Non lo so, questo non lo so. So che quando, cioè, appunto, già discutevamo da un po' di mesi di questa idea con Alberto Prunetti, quando ci siamo detti, vabbè, però noi intanto vogliamo farla nel 2023 perché sono i 20 anni di Alegre e ci teniamo, diciamo, che sia un festeggiamento per noi. E poi però non vogliamo però farla dentro il centro storico di una grande città, vorremmo farla in una fabbrica e con dei lavoratori, che veramente una working class che scrive la sua storia. E era fine ottobre 2022, ho detto a Dario, noi vorremmo fare un festival di letteratura working class e le vorremmo fare alla CKN, lo vorremmo fare con voi. E Dario fa, sì, però quando? La settimana prossima, cioè fra 2 settimane? Ho fatto, no, vabbè, cioè, un minimo ci vuole, volevamo invitare ospiti internazionali. E Dario mi dice, no, vabbè, ma noi non riusciamo proprio a pensare oltre le 2 settimane, non è impossibile, oltre 2 settimane. E ho insistito e abbiamo detto ok, e abbiamo cominciato a portare avanti l'organizzazione di questo festival col piano A, piano B, piano C, perché eravamo in mezzo a una lotta di classe, non solo a voler fare un festival di letteratura working class, ma farlo nel mezzo di una lotta di classe che quindi non sa cosa succede la settimana dopo, la settimana successiva. Quindi si poteva fare qui, si poteva fare quasi qui, oppure trovare i piani BC, eccetera. In questo senso abbiamo cominciato a coinvolgere altre forze, altre energie che io vorrei poi alla fine ringraziare ad una, anzi subito, sicuramente gli altri di Alegre che insieme a noi hanno costruito il programma e tutta l'organizzazione, Emily Zendri, Chiara Luce Breccia, Alessio Melandri che ha fatto tutta la grafica e con Antonio Pronostico che ci ha fatto anche il disegno. I compagni appunto del collettivo di Fabbrica, non solo Dario ma soprattutto Matteo Ciolli, che non vuole mai intervenire dal palco ma è stato il cuore, diciamo, della costruzione del programma e dell'organizzazione di questo festival, e i solidali, o le solidali, in particolare Francesca Di Marco, che ci ha aiutato tantissimo soprattutto nel programma dello Spazio Prole, non solo, nella costruzione di tutto il programma, Valentina Baronti, che ci ha aiutato per l'ufficio stampa, che appunto è la risonanza anche importante che ha avuto questo festival, e anche grazie a lei, e Pietro Cardelli dell'Arci di Firenze, che poi è stata l'ipotesi B e C di dove avremmo potuto fare questo festival se fosse stato impossibile farlo qua. Quindi, e poi i tantissimi solidali che hanno lavorato in questi giorni, perché appunto questo festival si fa senza finanziamenti, grazie a 305 persone che hanno finanziato e dato i soldi base per poter, ma i soldi base, nessun festival al mondo si fa solo con i soldi, con 11.000 euro, qua si fa con 11.000 euro perché ci sono state, non so, 100 persone, forse di più, che hanno cucinato, che hanno aperto il bar, che ci hanno aiutato nella libreria, che sono andati a prendere i relatori con le macchine, avanti e indietro, tutto militanza, non lo trovate da un'altra parte, no, o c'è un contesto militante, l'amalgama particolare che si è creata tra, e che ci rende particolarmente orgogliosi, tra il lavoro militante e culturale che facciamo come Alegre e una lotta vera e propria che ha prodotto una cosa del genere, che altrimenti avrebbe avuto bisogno di decine e decine di migliaia di euro per essere possibile. Ovviamente mi dimenticavo i relatori e relatrici che sono tutti intervenuti gratuitamente e hanno dato il contributo fondamentale poi a tenere altissimo la qualità del dibattito. Che il nostro festival era uno strumento di lotta di classe ce l'ha dimostrato, diciamo, il liquidatore in questi giorni, è uscito su tutti i giornali che siamo tutti qua minacciati di denuncia, chiunque ha partecipato a questo festival ha dato particolarmente fastidio, perché evidentemente questi operai vogliono pure discutere di letteratura, come si permettono, addirittura vogliono scrivere da soli la loro storia, e quindi in realtà invece quanto è stato dentro, e per noi quello è l'elemento fondamentale, lo dicevo in apertura, dove si fa il festival è metà del programma, e il fatto che sia uno strumento della lotta di classe impedisce di far sì che la letteratura working class sia semplicemente un'identità o una categoria merceologica, no, deve essere uno strumento di lotta, ed è questo che è, diciamo, il senso che vogliamo far uscire da qua. Chiudo dando la parola a Dario, dicendo che tutto questo comunque è stato possibile anche perché c'è stato questo incontro con Alberto, il gruppo di convergenza culturale, Dario e noi di Alegre, che ha dato vita un anno fa al libro Insorgiamo, che poi è stato, diciamo, l'inizio di un rapporto così forte tra Alegre e GKN, che poi ci ha portato fino a qua, ed è un libro ovviamente di cui siamo orgogliosissimi, perché è veramente, diciamo, la lotta più importante che ha saputo raccontarsi, saputo lottare e raccontare contemporaneamente, e che in questo modo è diventata un gioiellino della nostra collana di letteratura working class. Quindi mi fermo qua, vi ringrazio ancora tutte e tutti e do la parola a Dario del collettivo di Fabbrica GKN. Aggiungo una piccola cosa, sentendo anche prima di intervenire Dario, perché mi unisco ai ringraziamenti su chi non c'è, e voglio dire di quei lavoratori che da 20 mesi a questa parte via via abbiamo perso nella partecipazione e nella lotta, e ve lo dico da lavoratrice del patronato della CGL, perché oltre a fare militanza poi io mi ritrovo e domattina sarò in ufficio a fare le domande di Naspi. E vi racconto di questo lavoratore ex GKN, la scorsa settimana mi si è presentato davanti per fare la domanda di Naspi, era venuto a fare l'avvertenza perché appunto da 6 mesi non si pagano gli stipendi, si era sentito male, aveva avuto una colica perché non sopportava di dover fare questa domanda di Naspi dopo 6 mesi che non veniva pagato, non la sentiva come una violenza anche di abbandonare la lotta e di abbandonare questo posto, perché dicevano era loro nell'illegalità e nei passaggi che non sono stati fatti correttamente. Era lì insieme alla compagna, hanno venduto casa perché avevano un mutuo e non ce la facevano più a pagarlo, la compagna non lavora e fa la badante gratuitamente per sua mamma, perché nessun altro può prendersi cura di lei, e si devono anche trasferire cambiando provincia, perché l'unica casa a disposizione di questa donna anziana si trova molto lontana. E lui mi ha detto che era una giornata molto, molto difficile essere lì e fare questa domanda di Naspi, perché alla fine sono soldi pubblici, sono soldi di tutti, quando invece chi avrebbe questi soldi e chi avrebbe le risorse dovrebbe pagare, come se noi non arriviamo a fine mese e però non paghiamo una bolletta della luce e ce la staccano, non si capisce perché c'è qualcuno che continua a non pagare e lo fa liberamente. Ecco, per lui, come tanti altri che ho visto arrivare agli sportelli, che onestamente venivano anche a segnalare che il figlio ormai maggiorenne aveva iniziato a lavorare e quindi comunicava all'INPS che non voleva più quel surplus dell'assegno unico, e che anche magari gli aveva detto corri, no, a dirlo, perché noi siamo onesti, corri a dirlo allo Stato che non ci sostenga più perché c'ho figlio che lavora. Ecco, noi ci troviamo davanti queste storie tutti i giorni agli sportelli, e se oggi magari non sono qui con noi è perché non c'è questa forza che si è consumata nel tempo, e lo dovremmo continuare a raccontare e a tenerlo molto presente. Quindi grazie a tutte e a tutti, anche a chi non c'è, per questo e perché non ha la forza. Ora davvero diamo la parola a Dario e al collettivo di Fabbria GKN. Un po' questo festival, tutte le singoli e le realtà organizzate hanno reso possibile questo momento di lotta. Noi da quel 9 luglio siamo sostanzialmente pervasi da un senso di lutto che si rinnova ogni giorno, perché sentiamo un po' sfuggire tra le mani giorno dopo giorno una storia, una narrazione. È un po' come succede quando ti rendi conto che hai poco tempo, ti verrebbe da raccontare tanto, da buttare fuori anche in maniera disordinata tutto quello che sai che non sarà più raccontato. Ed è un po' frustrante a volte, perché per quanto tu ci provi ti rendi conto che saranno tante, troppe cose che non verranno probabilmente mai raccontate. E partiamo da qua. Chi entra e chi entrava in GKN, io non sono tra quelli lavorativamente più anziani, accedeva a un enorme racconto orale tramandato da generazioni e generazioni, fatto di aneddoti goliardici, di scioperi, di insegnamenti, di tradizioni. Il più classico, il passo Fiat, cioè si tramandava da generazioni e generazioni che per lavorare devi andare col passo Fiat lentamente, perché i vecchi Fiat era una delle prime cose che ti raccomandavano entrando in fabbrica. E ovviamente spezzare, precarizzare, subappaltare, suddividere, rendere continuamente licenziabile serve anche a rompere continuamente queste terminazioni nervose che poi ti permettono di ricevere una storia orale, a tua volta di diventare capace di tramandarla e quindi di raccontare, di narrare. E questa storia orale contiene singole racconti, ma contiene anche una rielaborazione e a sua volta un domani magari anche di scriverla. Per cui la verità è che la tua capacità di narrare e la tua capacità di lottare per i tuoi diritti sono una sola cosa. Per lottare per i tuoi diritti devi avere la capacità di narrare, e quando hai diritti ovviamente sei facilitato nel portare avanti una narrazione e nel conservarla nel tempo. E ci sono tante, troppe cose che noi non riusciremo a raccontare, dettagli a volte, dettagli però che come sempre nascondono piccoli episodi di lotta di classe, perché la lotta di classe straborda, si estende a tutto, si estende a qualsiasi cosa, si estende a come vengono nascoste fisicamente le fabbriche nel tessuto urbano, per cui a un certo punto le fabbriche esistono ma sono nascoste, e come questa, se voi andate a chiedere, non ora che c'è la lotta ma prima, se c'è la consapevolezza chi va ai Gigli che questa non è solo una zona commerciale ma c'è una fabbrica, probabilmente non sanno riconoscere lo spazio della fabbrica. E a volte, siccome le cose da narrare sono troppe, lo spazio fisico ti aiuta improvvisamente a narrarle di colpo, anche se magari in maniera un po' fantasiosa. E questo, per esempio, ha dato tanto a questa lotta, il fatto che l'assemblea permanente fosse in fabbrica, dentro la fabbrica, e non un gazebino di fronte al cancello. Dal punto di vista della narrazione, di trasmettere a tante persone immediatamente cosa stava accadendo, è stato fondamentale. Quante volte ci ritroviamo ad andare a trovare i nostri cari nel luogo dove lavorano e a dire, ah, è questo il luogo dove lavori, no? Cioè dove passi tanto del tuo tempo che è sottratto poi a quella vita, e quanto a volte anche semplicemente guardare un ufficio, una scrivania, non ti racconterà tutto quello che è accaduto lì dentro, ma ti aiuta un pochino di più a capire di che cosa si parla e come infatti è assolutamente nascosto questo spazio fisico alla vista, e deve essere nascosto lo spazio fisico alla vista, quasi a creare un momento di alienazione tra un pezzo della tua vita e tutto quello che è fuori da quel posto di lavoro, ma che poi è quello per cui tu vai a lavorare o credi che vai a lavorare, no? Quindi saranno tante troppe cose che non verranno raccontate, tra l'altro non sarei probabilmente nemmeno il più adatto a raccontarle, perché affondano la storia negli anni 80, 90, negli anni 2000. Si potrebbe raccontare, a me una cosa che mi ha sempre colpito è come ci sia un lavoro sistematico a toglierti proprio la dignità. Per esempio, dentro una fabbrica come questa o altre in cui ho lavorato, cioè il capitale privato mi è sempre sembrato un enorme spreco spaventoso. Là fuori, una volta abbiamo fatto un sopralluogo, c'erano non si sa quante tonnellate e tonnellate di pezzi abbandonati, cioè pura delinquenza, puro teppismo, vandalismo di altro tipo. Però quando c'era un atto vandalico in fabbrica, e ce n'erano, taglio di infilo, una macchinetta rotta, c'era la corsa da parte del padrone a fare le foto e a metterle lì per farti sentire un po' animale, perché nell'anonimato di quel gesto noi ci sentivamo tutti un po' animali e perdevi anche il senso poi di rivendicare, avevi la sensazione che la comunità attorno a te fosse sporca e quindi in qualche modo avesse meno diritto a rivendicare. Oppure mi ricordo di quando ci raccontavano che una delle prime situazioni, una delle prime cose che annunciava la grande crisi della Fiat a Pomigliano era che avanzavano sempre 2 ore a fine turno e i lavoratori, che può sembrare anche, come dire, goliardico, molto anche, diciamo così, tradizionale, facevano un mercatino di vestiti a fine turno, durante l'orario di lavoro, no? Il che da un lato è anche un gesto di ribellione sacrosanta, però è un gesto di ribellione individuale. Non è più rivendicare che tu quelle 2 ore potresti non lavorare, è un espediente. E quando poi a un certo punto inizia la campagna della Fiat contro i fannulloni, ci arrivi sporco. E quindi anche in fabbrica c'è questo, ma penso in ogni posto di lavoro, no? C'è sempre questo filo sottile tra una ribellione sacrosanta, a volte anche individuale, nel dire no, vaffanculo, il prossimo pezzo non te lo faccio, e però quel lassismo che poi ti fa arrivare in realtà più scarico nello scontro, perché in realtà stai cercando una scappatoia individuale invece che rivendicare complessivamente un abbassamento dei ritmi, qualcosa di diverso. Quello che posso dire è che GKN, per come mi è stata raccontata, era ed è un'enorme fucina di creatività di ogni tipo, dalle carbonare fatte sui trattamenti termici, le partite a pallone nel pieno turno notturno, di cui noi abbiamo visto solo piccole cose, perché piano piano questi spazi di goliardia si restringevano, eppure la fabbrica funzionava meglio quando c'era questo livello di socialità tra i lavoratori, perché era un livello di socialità che si mescolava anche a tramandare competenze tecniche, a lasciarti la macchina perfettamente in ordine perché ti rispetto, a riconoscersi come individui parte di una comunità che quindi si rispettavano anche sul lavoro, e in questo rispetto c'era un enorme fiorire di competenze tecniche, molto diverso dalla GKN che abbiamo conosciuto noi, che già lottava per tenere fuori il lavoro interinale, ragazzi che venivano presi, poi rimandati a casa senza nessuna possibilità di conoscersi realmente. O si potrebbe raccontare di come alla fine veramente invadono ogni campo della tua socialità. A me una cosa, per esempio, che mi ha sempre veramente scassato, ho sempre trovato una violenza, che nel loro tentativo di cancellare la tuta blu, a un certo punto ci tolgono proprio la tuta blu. E c'erano queste tute bianche, uno che lavora in officina col grasso, oltre ad essere una cosa irrazionale, come tante delle cose irrazionali che fanno, è trovarti tutto sporco con questa tuta che ti fa sentire a disagio e non orgoglioso della divisa, è un piccolo elemento piano piano di indebolimento della tua psicologia e del tuo sentirti appunto tuta blu. Hanno individuato che lì c'era un elemento di divisa, di appartenenza, di orgoglio, e quindi quell'orgoglio andava piegato e devi passare alla tuta bianca, che oltre a essere bruttissima in un luogo metalmeccanico, non sei in un ospedale, serviva a farti sentire in qualche modo a disagio anche rispetto a come ti potevi sporcare al lavoro, e l'idea che comunque ti stavi allontanando dal lavoro manuale, non eri più quello. O ancora di quando abbiamo fatto una volta, hanno fatto la vecchia RSU una 24 ore sulle macchine, e trovarono che su 8 ore c'erano 150 minuti di fermo macchina, un'enormità. C'è questa anche asimmetria nel tempo. Il minuto di pausa doveva essere sempre sanzionato, poi non riusciva molto bene da queste parti, insomma, alla fine le pause venivano prese largamente, però la mensa, cioè questo costante attacco ai 30 minuti di mensa, costante, continuo, questa ossessione verso il cazzo di 30 minuti in cui tu devi mangiare e in cui fai anche quel minimo di socialità, un attacco sistematico, e poi vai a scoprire che in 8 ore sono 150 minuti di inefficienze e ti rendi conto che la tua ora di sciopero che ogni tanto li piazzi lì non è nulla rispetto alla quantità di spreco che infatti poi esplosa in questa fabbrica ferma da 20 mesi, proprio eruttando il loro spreco continuo di tempo, e poi vengono a farti le pulci sul minuto. E però noi eravamo in grado di arrivare a contestargli il minuto al contrario, perché c'erano diritti, comunità, competenze tenute insieme ovviamente da diritti contrattuali senza i quali non puoi fare le 24 ore di sulla macchina dimostrandogli che sono loro l'inefficienza e sono loro lo spreco totale, che quel tempo potrebbe essere sì liberato per fare cose migliori, altro che 30 minuti di pausa. E a tutto questo, e mi avvio alla conclusione, si dovrebbero aggiungere questi 20 mesi, che sono un altro elemento di narrazione totalmente nuovo per noi, forse ancora da metabolizzare. Io ricordo un vecchio testo parlava della rivoluzione russa, mi colpì perché era un testo dopo 2 o 3 anni, e c'era questa frase: non si può fare socialismo con chi sputa per le scale. Cioè, che senso? Cioè sì, è disdicevole sputare per le scale, però insomma uno si immagina cose molto più epiche, e invece noi siamo stati messi di fronte a cosa vuol dire passare da una gerarchia indotta dall'alto a provare a darci un'autodisciplina e a dover curare i dettagli e a doverci curare reciprocamente, e siamo molto molto lontani dagli standard che vorremmo, molto molto lontani, ahimè, perché crolla un vecchio mondo e il nuovo è molto lontano da arrivare, e nel mezzo entri in tutta una serie di contraddizioni, ti si disgrega da una parte la vecchia routine, con il positivo e il negativo che questo vuol dire, questa disgregazione, ti apre degli spazi ma ti toglie anche delle certezze, ti toglie anche delle cose che positive. Questo determina un trauma psicologico, non soltanto un elemento di liberazione, ma anche una grossa difficoltà a metabolizzare questo. Quindi in questi 20 mesi abbiamo vissuto cose diverse, che poi magari un giorno troveremo il modo di raccontare in maniera più sistematica, o forse no, lo vedremo, ma che è un orgoglio e un onore poterle raccontare, così come è un orgoglio e un onore poter raccontare questo festival e tutto quello che seguirà. L'ho già detto negli altri interventi, se ci prenderemo una denuncia per un festival della letteratura working class, la prenderemo molto serenamente e molto tranquillamente. La narrazione è individuale ed è collettiva, e c'è una dialettica tra queste due cose, perché da una parte è progresso, ed è un elemento di progresso accorciare le distanze tra soggetto narrante e soggetto narrato, perché come ti narri tu non ti può narrare nessuno, ma questo non va mai inteso in senso individualistico. Dal lavoratore può venire un racconto che in realtà è semplicemente un rivomitare le cose che gli hanno messo in testa, quindi la narrazione è comunque una conquista, non è un elemento semplicemente in cui tu spieghi cosa ti passa per la testa, è un'altra cosa, e per fare questo ci vuole la capacità di tenere insieme la narrazione del tuo posto di lavoro con i mille dettagli a una narrazione storica della tua classe, e nella dialettica con tutti i settori di quella classe, e nella dialettica con gli intellettuali che magari in supplenza per un periodo hanno narrato al posto di chi doveva narrare, quindi mai in senso restrittivo, individualistico, eccetera. Cosa ci può servire questa narrazione? Beh, sicuramente uscire da una concezione un po' economicistica della lotta sindacale, non fraintendetemi, soprattutto in un periodo dove non prendiamo gli stipendi da 6 mesi, quegli stipendi per noi sono fondamentali, non sto dicendo questo, sto dicendo che si è un po' sedimentata da tempo la concezione che fare lotte operaie vuol dire sostanzialmente lottare per elementi economici come il premio di risultato, e c'è una pressione perché evidentemente i lavoratori, soprattutto dopo anni di impoverimento, hanno una fame incredibile di monetizzare il più possibile il proprio tempo, e anzi lo dovrebbero fare di più, dovrebbero lottare per salari ben più alti. Però la verità è che perché non ci riesci? Per mille ragioni. Una anche è perché per difendere e monetizzare in maniera più alta possibile il tuo tempo devi avere un senso del valore di quel tempo. E il senso di valore di quel tempo avviene se tu riesci a narrare che cos'è per te quel tempo, quella vita. Altrimenti finisci semplicemente per essere intrappolato in un gioco che non vincerai mai e che non può essere vinto, dove rivendichi salario per essere più consumatore, e più consumatore ti porta meno salario e più precarietà, e alla fine è un gioco a perdere sempre, perché alla fine della tua vita magari ti sarai posizionato in una fascia medio-alta reddituale, ci sarà un giorno che non capirai quanto ce ne hai lasciato in medicine e quanto ce ne potevi lasciare in tempo libero, quanto l'hai buttato per inseguire un livello di consumo più alto che a sua volta ti ha comportato che per te abbandonare quello stipendio era inaccettabile, quindi hai dovuto scendere a compromessi, e quindi non lo sai quale sarà il gioco finale nella tua vita di questa rincorsa tra salariato e consumatore. Noi siamo salariati perché portiamo a casa il salario, quel salario però è uno strumento per raggiungere una vita, e che cosa sia questa vita appartiene a una narrazione autonoma che dobbiamo fare insieme, liberandoci dal loro concetto di vita e riappropriandoci di un concetto di vita assolutamente più armonioso, che quello che poi fa storcere il naso quando diciamo che siamo in convergenza col movimento ambientalista, transfemminista, ovviamente con tutte le altre lotte, perché, scusate il termine un po' forte fatto in una fabbrica di un padrone cattolico, noi siamo l'unico vero movimento per la vita, nel senso che mettiamo la vita come unico concetto strategico al centro, e non sappiamo a cos'altro serva lavorare e portare a casa lo stipendio se non liberare gli spazi della nostra vita. E siccome il lavoro, ahimè, ancora per molto tempo è quel pezzo che può essere molto alienante alla nostra vita o molto aggradante, e lì si gioca lo scontro. Lì si gioca lo scontro, e questo scontro passa anche dalla nostra capacità di essere soggetto narrante, narrato, di raccontare, di raccontarsi, sapendo scendere nel dettaglio del colore di una tuta, ma tenendolo insieme con i grandi fatti storici della classe operaia. Io non so, e di tutto il resto delle mobilitazioni sociali, io non so se ci saranno altre edizioni. Io so che non abbiamo nessuna certezza di vincere questa lotta, anzi direi che le probabilità giocano contro di noi, ma possiamo già ora decidere di riscrivere un po' il nostro piccolo calendario, no? Noi ormai il 9 luglio diciamo, è la giornata campigiana dell'orgoglio operaio, per cui penso che dovremo prendere l'accordo che anche quando questa fabbrica malauguratamente fosse una scatola vuota, il 9 luglio continuerà ad essere una giornata di lotta, di mobilitazione, di concerto e di ricordo. Niente ci vieta che nel nostro piccolo calendario scriviamo che il nostro piccolo pesce d'aprile tutti gli anni sia un festival della letteratura working class, dovunque riusciamo a tenerlo.